22 gennaio del giornalino di Gian Burrasca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni di LibriVox sono di pubblico dominio. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Riccardo Fasol. Il giornalino di Gian Burrasca, di Vamba. 22 gennaio. Ho appena 2 minuti di tempo per scrivere 2 righe. Sono a Montaguzzo, nel collegio Pierpaoli, e profitto di questo momento in cui mi trovo solo in camerata con la scusa di prendere dal mio baule la biancheria che mi è necessaria per la mia toilette. Proprio così. Ieri mattina il Maralli mi riaccompagnò dal babbo, al quale raccontò tutto quello che gli era successo per causa mia. E allora il babbo, a racconto finito, non disse altro che queste parole. Me l'aspettavo. Tanto è vero che il suo baule con tutto il corredo richiesto dal collegio Pierpaoli è su belle pronto. Partiremo subito con la corsa delle 9:45. Giornalino mio, non ho coraggio di descrivere qui la scena della separazione dalla mamma, dall'Ada, dalla Caterina. Si piangeva tutti come tante fontane, e anche ora nel ripensarci mi vengono giù su queste pagine i goccioloni a 4 a 4. Povera mamma. In quel momento ho capito quanto bene mi vuole, e ora che sono così lontano da lei, capisco quanto bene le voglio io. Basta. Il fatto è che dopo 2 ore di treno e 4 di diligenza sono arrivato qui, dove il babbo mi ha consegnato al signor direttore e mi ha detto, lasciandomi: speriamo che quando ritornerò a prenderti possa trovare un ragazzo diverso da quello che lascio. Mi riescirà di diventare diverso da quel che sono? Sento la voce della direttrice. Mi hanno messo la divisa del collegio, che è bigia, col berrettino da soldato, la tunica con una doppia fila di bei bottoni d'argento e i calzoni lunghi con le bande rosso scure. I calzoni lunghi mi stanno benissimo, ma però la divisa del collegio Pierpaoli non ha la sciabola, e anche questo per me è stato un bel dispiacere. Fine del 22 gennaio.